You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare non a vanvera contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti. Che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questa puntata di Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che ha come ogni settimana ospite un italiano di origine straniera. Parliamo quindi di questa Italia che cambia e lo facciamo come ogni puntata iniziando a parlare di cucina. Si avvicinano le Olimpiadi invernali, anche noi ci accostiamo a temi sportivi, quindi questa sera abbiamo un campione italiano di supermedi a Radio 24. Ho il piacere di aver avuto a cena il campione di box Muhammad Ali Ndiaye. Buonasera. Buonasera a Radio 24, buonasera a tutti. Ho pronunciato bene il suo nome? È Muhammad Ali Ndiaye, del Senegal. Ali come un altro famoso Ali, no? Un altro boxer famosissimo, mi verrebbe da dire. Sì, di Muhammad Ali d'America. Esatto. Porto proprio il suo nome, Muhammad Ali. Mio padre mi ha dato il nome di grande campione Muhammad Ali. Mi non è un caso, lui. Vero? Non è un caso che lei si chiami così? Non è un caso. Mio papà era ex pugile, quindi era fan di Muhammad Ali e quando sono nato mi ha dato il nome di Muhammad Ali, che ho incontrato nell'80 e poi nell'89 sempre in Senegal. Quindi insomma, in un nome già importante, un padre, suo padre che faceva già il boxer, lei è stato pugile dilettante ma adesso è professionista. Tra l'altro la cittadinanza italiana, poi lo racconteremo il perché è riuscito a ottenere la cittadinanza italiana, quindi combatte proprio per il tricolore. Però io ho pensato di fare questa puntata anche per una notizia di attualità. Da quest'anno infatti anche gli stranieri nati nel nostro paese ma senza cittadinanza italiana, non è il suo caso ma di altri ragazzi, potranno salire sul ring dei campionati italiani di tutte le categorie, lo ha annunciato la Federazione Pugilistica Italiana. Dal 2014 infatti ai campionati potranno partecipare tutti i pugili nati in Italia e quelli nati all'estero che siano residenti e tesserati da un club italiano. Insomma, una forte novità. Questa è una bella cosa, l'esport deve essere un punto di riferimento, un punto di integrazione senza diversità di provenienza o di razza. Quindi questa cosa qui è un piacere sentire, non lo sapevo nemmeno io, però mi fa piacere sentire questa cosa da voi, che la federazione vuole che tutti quanti che sono residenti qui, non della nazionalità italiana, possono fare questo campionato, che sarebbe una bella cosa, perché lo sport è una cosa che unisce tutti quanti. Senza... Un investimento per il futuro, l'ha definito proprio Alberto Brasca, il presidente della Federazione Pugilistica Italiana. Insomma, anche per gli stranieri che vivono in Italia da tanti anni, che combattono, che sul ring è una novità importante. E lei però ha fatto un percorso diverso. È italiano, è cittadino italiano, campione di pugilato per l'Italia, per amore, si può dire così, no? Sono diventato un cittadino italiano, che neanche sono fiero anche di esserlo, perché mia moglie è italiana e siciliana è siciliana, quindi dal 2002 ci siamo sposati, da lì ho preso la cittadinanza italiana per poter combattere sulle colore della nazionale italiana. E poi parleremo un po' anche di questo incontro con sua moglie che le ha cambiato la vita in tutti i sensi. Prima di tutto questo però, come ogni volta, come ogni nostra puntata, iniziamo parlando di cucina. Che cosa ci prepara? Fare un piatto senegalese che si chiama mafè, un piatto buono che mi piace fin da bambino, quindi mia mamma me lo preparava, quindi arrivando qui in Italia ho trovato gli ingredienti qui e ho cominciato sempre a cucinare queste piatte che piace anche a mia moglie. Quindi quando ha un po' di nostalgia del Senegal lo cucina? Ma sempre. Prima trovavi ingredienti difficilmente qua, ma visto che c'è l'integrazione, ci sono le botteghe africane, queste cose qui, poi riesci a trovare tutto. Che cosa ci vuole per prepararlo? Quali sono gli ingredienti? La carne che trovi ovunque, il problema era il burro di arachidi. Mm-hmm. Trovi il burro di arachidi, poi metti il riso in bianco, cipolla che trovi, concentrato di pomodoro, aglio, un mezzo cavolo, una cosa così, patatine, carote, peperoncini rossi. Io preparo, poi gustando questa cosa qui mia moglie mi ha chiesto di impararlo, poi ora lei lo sa fare meglio di me. Sua moglie è italiana appunto, a casa vostra mangiate italiano o mangiate un mix di Senegal e Italia? No, facciamo metà a metà, a volte mangiamo senegalese, a volte mangiamo italiano, però a mangiare italiano mi piace tantissimo perché la sua mamma quando va in Sicilia mi fa pasta al forno, queste cose qui, mi gusta, mi piace. Già due volte campione internazionale IBF categoria pesi supermedi, già campione italiano categoria pesi supermedi. Sfidante ufficiale al titolo della Comunità Europea per la categoria pesi medi, è accompagnato all'angolo da maestro Franco Kerchi per la OPI 2000, nato in Senegal ma cittadino italiano, Muhammad Ali, The Power Liaye! Ora viviamo in Toscana, mia moglie prima abitava a Firenze, ora viviamo a Pontedera, la città dove sono residente da 14 anni. Lei diceva che è fiero di essere italiano, si sente più italiano o più senegalese? Sono fiero di essere un cittadino italiano perché i miei figlioli e mio amore e mia moglie sono italiani, c'hanno la sangue italiano. Sono fiero anche di essere un cittadino senegalese perché sono nato e cresciuto nella terra del Senegal, mio papà è senegalese, mia mamma è senegalese, quindi fiero di essere italiano. Ho letto che sono cresciuto mangiando i frutti del Senegal e vivo e mangiando i frutti di questa terra, dell'Italia, della Toscana. Amo Pontedera perché mi ha adottato quando non ero nessuno. Vero, queste sono le mie parole, è quelle che sento dentro. E non mi vergogno di dire queste cose qui, ovunque vada al mondo io sono fiero di essere un cittadino italiano perché l'Italia mi ha dato qualcosa, sono fiero di essere un cittadino senegalese visto che sono nato lì e cresciuto lì mangiando la frutta del Senegal, quindi sono fiero, l'importante è essere una persona onesta e rispettabile. Ci racconta com'è diventato campione italiano? Mio papà era ex pugile, era campione del Senegal per 5 volte. Quindi sono nato e cresciuto dentro una palestra. Poi porto il nome di Mohamed Ali, sono stato nella nazionale del Senegal per diversi anni, sono stato anche campione del Senegal del 97, 99 e 98. Quindi ho cominciato a fare boxing in Senegal. Poi dal sogno di diventare campione del Senegal. Ma è vero che hai iniziato a indossare i guantoni a 5 anni? Sì, anche meno, perché la palestra è casa mia. Portavo i guanti, giocavo con i guanti, queste cose qui. In quale zona abitava del Senegal? A Dakar? Io abitavo a Dakar in Pichine, una banlieue di Dakar. E lì posso dire che... Una banlieue, quindi una periferia, un Bronx. Una periferia, però la maggior parte dei campioni escono da questa città che si chiama Pechino, che è la peggior banlieue di Dakar. E com'era la vita lì a quei tempi? Come la ricorda? Mi ricordo tanto, però sono sempre fiero perché mi ha insegnato tante cose. Oggi posso ricordare e ridere. Quanti fratelli ha in Senegal? Era una famiglia grande la sua? Sì, è una famiglia grande e povera. Siamo 11 figlioli. Questa è l'Africa. Anche penso qui 50 anni, 60 anni fa era così. Poi piano piano cambia tutto. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. You've got to give a little. Take a little. Buonasera ancora una volta, bentornati a questa seconda parte di Indovina chi viene a cena, la trasmissione che ha come protagonista ogni settimana un italiano di origine straniera. Stasera abbiamo con noi un campione italiano di box, Muhammad Ali, nato in Senegal ma ora cittadino italiano, che ci sta proprio raccontando la sua infanzia in Senegal e come è arrivato poi in Italia. Allora Ali, lei diceva ha conosciuto il grande Muhammad Ali, no? Da cui suo padre ha deciso di prendere il nome per il suo secondogenito, ha incrociato i guantoni già da bambino perché il suo padre proprio era anche lui un pugile nella periferia di Dakar. Da qui poi come è arrivato in Italia? È passato dalla Francia, mi pare, no? Sì, sono dal Senegal perché ho fatto le qualificazioni dei Giochi Olimpioni che nel 2000 ho perso la qualificazione in Cairo. Poi dopodiché ho detto io se resto qui in Senegal, visto che non c'erano le possibilità, devo andare via di qua per poter raggiungere i miei sogni, diventare campione del mondo. E il Senegal non mi permetteva di diventare campione del mondo visto che non c'erano i mezzi. Da lì sono passato in Francia, dalla Francia poi dopo ho fatto un paio di mesi, c'erano un po' di difficoltà per un permesso di soggiorno su e giù. Sono arrivato qui e nei primi tempi ho fatto compra come tutti i ragazzi che vengono dal Senegal, da un altro paese. Lei è arrivato da clandestino, senza documenti, no? Sì, sì, sono stato clandestino per 2 anni. E facevo comprare come dicono qua in Italia, vendevo destra, sinistra, al mare, però ho sempre avuto qualcosa dentro di me che mi dice vai in palestra, allenati perché un giorno potrai raggiungere i tuoi sogni. Dove dormiva? Che vita faceva? Prima sono stato dai miei cugini, poi ho avuto problemi con loro, sono stato a dormire a una casa abbandonata, quindi la mia vita è un po' anche così. Come ha conosciuto sua moglie? Mia moglie l'ho conosciuta su un treno, andavo a vendere accendini, fazzoletti, tutte queste robe qua, sulla stessa vagone ci siamo seduti di fronte l'uno all'altro, poi dopo una settimana l'ho chiamata, mi ha risposto e oggi abbiamo 2 figlioli e un terzo in attesa. Amore a prima vista mi pare di capire. Ringrazio solo Allah di avermi fatto incontrare questa bella donna che ha la pazienza, ha la volontà, ha la voglia di vivere. Sono contento di conoscere una donna così. As long as there's the two of us, we've got this world and not love is chance. But when this world is through with us, we'll have prima se conosceva il film, lei mi ha detto beh, un po' come la mia storia d'amore, no? Ecco, com'è andata l'incontro con i suoi suoceri, con i genitori di sua moglie? E c'è stato quell'imbarazzo, quella resistenza che ad esempio c'era nella coppia protagonista del film Indovina chi viene a cena, quando si vede arrivare questo genero, questo bel ragazzo, ma un ragazzo di colore? Hanno avuto questa reazione o l'hanno accolta a braccia aperte? Mi hanno accolta a braccia aperte perché loro... La mia moglie c'ha una sorella che c'ha un bimbo che si chiama Antonino, però loro si facevano domanda ma se arriva lì in Sicilia il bimbo, visto che è nero, avevano paura che se io arrivassi a casa di loro in Sicilia il bambino non mi accettava. Poi quando io sono entrato in casa il bambino si è addormentato sulle mie braccia e loro si sono sciolti e poi mi hanno fatto mangiare come fanno a mangiare in Sicilia, che si... sono gente di cuore, mi aiutano anche nei momenti di difficoltà, questo devo dirlo che tutti lo devono sentire, mi aiutano la mia moglie, che è il loro bimbo, i miei figlioli, quindi hanno soltanto il buono da darmi. Lei fa anche il vigile del fuoco, è così? Sì, sono anche un discontinuo volontario di vigile del fuoco, che ogni tanto vado in caserma, visto che anche ho combattuto per i colori dei vigili del fuoco che mi avevano dato il permesso da Roma, avrei anche piacere di entrare nel corpo dei vigili del fuoco perché c'è le fiamme rosse e... Basterebbe entrare per meriti sportivi, come fanno tutti quanti nell'esercito, sulle fiamme gialle. Basta che loro vogliono che tu entri per meriti sportivi, perché i meriti ce l'ho. Essendo campione italiano, campione del mondo junior, campione dell'Unione Europea, quindi... Cioè, quindi facciamo un appello, insomma, al corpo dei vigili del fuoco. Lei sarebbe disponibile, anzi fiero di fare il vigile del fuoco in Italia, no? Certo. Già lo fa da volontario. Sì, che il mio cuore è grande e posso sempre aiutare, dare una mano e fare l'integrazione in questo senso. Sono fiero di metterla a divisa ogni volta che vado lì in caserma, sono contento. Ovviamente la box è uno sport anche con dei rischi. Lei ha avuto dei problemi, anche il rischio di perdere la vista. E una volta, ma mi dica lei se è vero questa notizia che ho letto in un'intervista, ha rischiato di essere arrestato a Miami perché era stato scambiato per un terrorista? Questo è verissimo, te lo posso dire personalmente. Dovevo fare un torneo con la nazionale azzurra a Santo Domingo nel 2004, avevo un visto di transito per gli Stati Uniti, mentre uscivamo a Miami mi hanno preso dicendomi non potevo uscire, dovevo fare solo il transito. Da lì mi hanno arrestato, tutti quegli altri l'hanno lasciato, perché in quel periodo lì aspettavo il mio passaporto italiano, viaggiavo con il passaporto senegalese. È bastato questo e forse il colore della sua pelle, non lo so, per avere questo sospetto su di lei. Può darsi, per due giorni mi hanno messo dentro una stanza e stavano facendo le ricerche. Poi quando hanno saputo che sono una persona tranquilla e combattevo per la maglia azzurra, e poi mi hanno liberato. Sono andata a Santo Domingo, dopo due giorni, un giorno e mezzo dentro una gabbia, e aspettare le risposte, sono andata a combattere per le maglie azzurre. Il primo incontro l'ho vinto per KO contro un messicano, Marco Periban, che ha fatto ora le sfidanti al titolo mondiale WBC. Il secondo match ho incontrato l'idolo di casa e che ho perso contro lui con distacco della retina, ho avuto foro maculare. Non ho mai visto un presidente della federazione, non ho mai sentito un presidente della Repubblica, nessuno. E ho fatto sventolare la bandiera italiana e dopo non ho mai visto più nessuno. Però dopo Dio mi ha aiutato, mi ha dato la salute, ho combattuto per... il campionato italiano nel 2004 e ho vinto questo qui di assoluti a Maddaloni. George Foreman viene investito da una vertica di colpi e va giù. George Foreman è un tappeto, è caduto come un albero nella foresta, è stato abbattuto dalla vertica di colpi di Mohamed Ali. È finita! John Foreman è stato messo in campo da Mohamed Ali! Mohamed Ali ha fatto l'impossibile! Ha riconquistato la corona mondiale dei pesi massimi che gli era stata ingiustamente tolta nel 1967! Ho letto che uno dei suoi sogni è di rincontrare Mohamed Ali. Io, a parte diventare campione del mondo, ho un sogno, incontrare Mohamed Ali. E questo è un appello che direi anche al Papa Francesco, perché l'ho scritto per poterlo incontrare, il Papa Francesco. Lei però non è cattolico, no? È musulmano di religione. Io sono fiero di nascere musulmano, ma Papa Francesco è un grande. Ho molta stima di Papa Francesco perché lui rispetta tutti gli esseri viventi, perché lo dimostra e lo fa vedere al mondo intero. La Chiesa ha bisogno di una persona come Papa Francesco. I musulmani hanno bisogno di una persona come Papa Francesco, perché è un esempio per l'essere vivente. Ci possiamo aiutare uno all'altro, però nella pace, la pace divina, che dobbiamo condividere e vivere nelle giuste maniere e rispettarsi l'una tra l'una e l'altro. Senta, mamma Deli. Con rispetto possiamo stare insieme a vivere tranquillo. Passiamo a argomenti, insomma, argomenti un po' più leggeri. Quando le ho detto prima se conosceva il film, lei mi ha detto, beh, un po' come la mia storia d'amore, no? Ecco, com'è andata l'incontro con i suoi suoceri, con i genitori di sua moglie? E c'è stato quell'imbarazzo, quella resistenza che, ad esempio, c'era nella coppia protagonista del film Indovina chi viene a cena, quando si vede arrivare questo genero, questo bel ragazzo, ma un ragazzo di colore? Hanno avuto questa reazione o l'hanno accolta a braccia aperte? Mi hanno accolto a braccia aperte, perché loro, la mia moglie c'ha una sorella che c'ha un bimbo che si chiama Antonino, però loro si facevano domanda, ma se arriva lì in Sicilia il bimbo, visto che è nero, avevano paura che se io arrivassi a casa di loro in Sicilia, il bambino non mi accettava. Poi quando io sono entrato in casa, il bambino si è addormentato sulle mie braccia. E loro si sono sciolti e poi mi hanno fatto mangiare come fanno a mangiare in Sicilia, che sono gente di cuore, mi aiutano anche nei momenti di difficoltà, questo devo dirlo, che tutti lo devono sentire, mi aiutano la mia moglie, che è il loro bimbo, i miei figlioli, quindi hanno soltanto il buono da darmi. Bene, siamo contentissimi di aver ascoltato la sua storia. Speriamo che la box, come lei si augurava, abbia più sponsor, più visibilità, visto che adesso c'è stato anche questa novità per quanto riguarda la presenza di campioni di origini straniere, che possiate vincere molte medaglie. Grazie di combattere per la bandiera tricolore e complimenti per la sua carriera a Muhammad Ali. Buona serata. Saluto anche il mio procuratore Salvatore Cherchi, che è di Milano, della OPI 2000. Benissimo, grazie, buona serata ancora. Grazie a voi, grazie alla Radio 24. Mafè, manzo stufato in salsa di arachidi. Ingredienti: 500 g di carne di manzo, 100 g di burro di arachidi, 200 g di riso lesso, una cipolla, 50 g di concentrato di pomodoro, uno spicchio d'aglio, mezzo cavolo, due patate medie, due carote, due peperoncini rossi senza semi, olio di arachidi, sale e pepe. Tagliare la carne a dadini. Tritare la cipolla e i peperoncini e schiacciare l'aglio. Far scaldare dell'olio in una casseruola. Quando sfrigola, versare la carne e farla rosolare per 5 minuti. Aggiungere l'aglio, la cipolla e i peperoncini, salare, pepare, mescolare e lasciare soffriggere per alcuni minuti. Versare il contenuto di pomodoro dopo averlo diluito con 2 cucchiai d'acqua. Rimestare e lasciare cuocere per altri 5 minuti. Coprire il tutto con 3 quarti di litro d'acqua e portare ad ebollizione. Unire tutti gli ortaggi interi lavati, lasciare cuocere per circa mezz'ora e togliere il cavolo, le patate e le carote. Diluire il burro di arachidi in mezzo bicchiere d'acqua e aggiungerlo nella casseruola. Cuocere per altri 15 minuti, mescolando frequentemente per evitare che la pasta d'arachidi attacchi sul fondo, fino ad ottenere un aspetto cremoso. Aggiustare di sale e servire caldo sul riso lesso. La trasmissione termina qui, l'appuntamento con l'Italia che cambia anche in cucina è per sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little, that's the glory of love.